Il sonno non arriva. È fuorviato dal gelo di questo posto, da questo saccone che pare pieno di patate. Che vita impossibile. Il tenente Alfani viene qui ogni 2 giorni, da 6 mesi. Viene con il suo plotone a dare il cambio sul posto avanzato. Collocare le sentinelle interne ai noti 5 posti. Cambiare la vedetta scoperta sulla piazzola. Assegnare il turno alle quattro squadre. Affacciarsi, come sempre, alla feritoia centrale. Un paesaggio fantastico. Uno scenario da saba romantico. La porta di ghiaccio dell'inferno. Vigilanza incessante, ma non ostilità. Vigilanza incessante. Sì, io sono così logorato. Questa vita da castoro tra sassi e neve. Devo dormire. Ma il sonno non arriva. Ricordi di battaglie lontane. Immagini terrificanti continuamente mi balzano agli occhi. Devo dormire. Che vita impossibile. Non mi sono mai sentito tanto nauseato come oggi. Tanto a disagio, stanco di questo servizio regolare e monotono. Non una macchia d'albero. Non un filo d'erba, tranne che nel fondo delle vallate. Quassù un caustico cumulo di lupi e sassi. Neve e ghiaccio. È l'ossatura della terra messa a nudo, scarnificata, dislocata e rotta. Devo dormire, ma il sonno non arriva. È fuorviato dalla turba dei pensieri. Non esporti, stai coperto, non esporti, stai giù. Le trincee sono state aperte scavando il vivo masso a forza di mine. Il monte delle schegge ha dato il materiale per i muretti e il pietrisco è servito a riempire i sacchi a terra. Boom! Boom! Ad ogni nevicata dobbiamo alzare le trincee e spostare le feritoie fino al livello della neve. Se non fosse per la neve, l'acqua mancherebbe del tutto. I soldati si sono accomodati anche qui e non sembrano starci di peggior umore che altrove. Avevano sempre parlato della guerra in montagna come di un riposo privilegiato. Salendo qui cantavano: quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna. Perché per loro la guerra in trincea era finita. Avrebbero potuto sdraiarsi nelle ore di ozio, prendere il sole, dormire senza essere visti, senza avere per sveglia una pallottola nelle gambe. E dalle cime dei monti immaginavano di avere un bel panorama. Al posto degli eterni muri di trincea, dei reticolati di fino spinato, speravano di dimenticare quella orribile pietriera carsica, tutta uguale, priva di ripari, tutta uguale. I soldati, l'uniforme è ciò che portate, potesse non essere uniforme ciò che nascondete al di sotto di essa. Il freddo, la neve, il ghiaccio, le valanghe non rendono la vita più dura per uomini validi. In tempo di pace sono elementi conosciuti da chi vive in alta montagna e nelle regioni dalla neve perenne. La guerra, per la fanteria, è l'assalto. Senza l'assalto è solo duro lavoro, non guerra. Vigilanza incessante, ma non ostilità. Vigilanza incessante, ma non ostilità. Gli ordini portano che il passaggio nella valle sia continuamente esplorato dall'alto. Vigilanza incessante, ma non ostilità. Vigilanza, io devo dormire. Che vita impossibile! Tutto quello che voglio è essere lasciato solo, anche soltanto per un mese. Oh, il silenzio è pieno di rumori. Gli austriaci potrebbero approfittare delle loro posizioni più vantaggiose. Dobbiamo stare attenti al tratto avanzato del costone della Venzela, da cui il mantenimento di esso dipende la saldezza della nostra linea retrostante. E il servizio più importante tocca alla nostra vedetta posta all'imbocco del canalone, che va a finire nella conca del Corbine, perché solamente da lì i nemici possono tentare una sorpresa. La piazzola di osservazione della vedetta è lontana una cinquantina di metri da qui. La linea di accesso resta bene o male riparata da due muriccioli che formano il camminamento, però più avanti, per la natura del terreno e la configurazione, non si sono potuti improvvisare nessuna sorta di ripari. Il soldato è esposto. Quel soldato deve avanzare carponi, insinuarsi tra le pieghe del suolo, strisciare fino a una radice di parapetto formata dalle sporgenze della roccia e rialzata alla meglio con sassi e sacchetti. Lì, durante due ore, in una posizione incomodissima e al gelo costante, la vedetta ha la consegna di non perdere mai di vista il fondo della forra. Vigilanza incostante, ma non ostilità. Vigilanza incostante, ma non ostilità. Ecco, la linea nemica a 500 metri da qui. Sì, e per la configurazione del terreno si accosta alla nostra verso sinistra e quasi la sfiora. E in quel punto, se gli uomini parlassero la stessa lingua, avrebbero già attaccato discorso. E in effetti c'è una specie di tacito accordo in virtù del quale nessuno dei due schieramenti molesta l'altro. E qualche scambio c'è, peraltro. Qualche pagnotta vola dai nostri posti agli austriaci e qualche pacchetto di tabacco fa la strada inversa. Vigilanza incessante, ma non ostilità, nessuna azione. Il pericolo è lontano, noi e loro siamo insieme aspettando oggi come saremo nel morire domani. Maledizione, ma dov'è la lotta? 100.000 volte meglio il pericolo. Meglio le avanzate sotto il fuoco nemico, sì, meglio gli urti contro i reticolati, meglio le ferite, come quelle delle quali porto i segni sulla manica e i premi sul petto, meglio la morte sul campo che questa inerzia snervante, questa sospensione nel vuoto, lo stillicidio di questo tedio, l'insofferenza per i disagi di tutti i giorni, di tutte le ore. Noi dobbiamo amare la guerra. Dobbiamo assaporare il combattimento da buon gustai finché dura. Sì, è vero, il combattimento è spaventoso. E appunto perché spaventoso, tremendo, terribile, devastatore, dobbiamo amarlo con tutto il nostro cuore di maschi. Chi non conosce il campo di battaglia non la conosce la guerra, quel sotterraneo scotimento dell'anima. E non conosco altri mezzi io all'infuori del campo di battaglia per trasmettere ai soldati e al popolo quell'energia per continuare a combattere. Ma come si può? a prendere l'odio impersonale, il sangue freddo omicida, l'ardore per la distruzione del nemico, l'indifferenza verso le perdite, l'indifferenza verso la propria esistenza, se non nell'assalto. Basta. Devo dormire. Io devo perdere coscienza di me. Devo dormire. Dove stanno sparando? Chi spara? Dove stanno sparando? Su che settore stanno sparando? Lontan di chi, sor tenente? La de Bas contro l'Arter Post. Hanno gagnato le truppe, signor tenente. I boemi lo dicevano che non sparavano, ma il plotone che ha smontato ci avrebbe avvertiti, no? Ce l'avrebbe dovuto comunicare. No, hanno gagnato le truppe, signor tenente. Quelli non sono boemi, sono croati. E a quest'ora che fanno i croati? Spare nelle pipistrelli. Zitto, Bardonecchi! Porta ordini! Consegna questo al comando centrale. Ore 4 e 10. Dalla postazione antistante è stato aperto il fuoco di fucileria senza effetto. Stop. Il fatto rivela un risveglio che richiede più attiva sorveglianza. Stop. Vai, svelto, vai. Magari. Finalmente qualche novità mi toglie dall'inedia, da questa mortificazione intollerabile. Mi affaccio come sempre alla feritoia centrale. Bene ragazzi, se hanno voglia di rompersi le corna, li serviremo a dovere, i camerati. Caporale Borga, chi è di turno? Chi è di turno sulla piazzola scoperta, quella all'imbocco del canalone, l'unico posto da dove i nemici possono tentare una sorpresa? Andiamo, Borga. C'è sta Vincenzino, ma mo è l'ora del cambio. E fai venire qui chi va sulla piazzola al posto di Visentin, Borga, non Vincenzino, Visentin. Vabbè, sor tenente. Numero 12, Galletta. Galletta, Caletti, Borga, Caletti. Ha sempre il vizio di storpiare i nomi. Eccolo, Caletti. È un ragazzo ancora imberbe, ha un viso bianco e roseo, occhi chiari, pieni di stupore. È pochissimo amante dei lavori manuali. Tutte le volte che gli ordino uno scavo, che bisogna adoperare la piccozza e il badile risponde inevitabilmente: «Songo malato!» Ma so di poter contare sulla prontezza dell'infingardo quando è il momento di affrontare il nemico. Caletti, sull'attenti, vieni qui. Allora Caletti, stammi bene attento, che dall'altra parte hanno cambiato il turno, devono esserci dei croati lì. Stammi attento, perché quei brutti ceffi stamattina si sono destati di malumore. Non dubita, sor tenente, mi sto attento, sì. Bravo Caletti, bravo, apri gli occhi e vai. Vedo Caletti, sta uscendo dal camminamento con il fucile a bilanciarm. Procede tra le asperità del passo scoperto. Si curva appena. Alla sicurezza che gli viene dalla lunga pratica e dalla tranquillità dei nemici. Ma no, più giù, devi stare più giù. I nemici si sono ridestati stamattina. Si è fermato prima dell'ultimo tratto, il più pericoloso. Sembra veramente che Caletti abbia sentito le mie parole. Si butta in ginocchio adesso, si allunga e striscia su per la breve erta verso la piazzola. Sta alzando il capo, forse Visentin lo sta chiamando. Adesso si sta riabbassando. Colpito, è stato colpito, porci croati! Atene, esso due, ma come due? Vincenzino Ergalletta. Come Visentin? Borga? Ma che dici? Adenè? Ma che n'ha visto? Vincenzino si è mosso, ha messo fuori il culo e gli hanno sparato pure a lui, poraccio. Borga, stai zitto, va bene? E chiama il prossimo di turno sulla piazzola scoperta. Vabbè, vabbè, sortenente, non sei arteri. Marmotta! Allora, la seconda squadra. Numero uno del primo turno della seconda squadra. Marmotta, oh, Marmotta, dove sta Marmotta? Oh, dove sta Marmotta? Ah, dorme in fondo a rigoro. Ho capito. Marmotta? Marmotta, dai, da, che tocca a te, devi detta, esci dal buco, ma sangue di Giuda, mi son devi detta e sin cuor, mi son dopo Ercaletti, e Ergalletta star creatore, eppure Vincenzino, poraccio, e beh, e dai, Marmotta, dai, alzate, oh, fammi vedere la giberna, dai, fammi vedere il fucile, e va a tappiare la vasote. E bomba a mano, Marmotta! Marmotti, borga Marmotti. Basta storpiare i nomi. Sull'attenti, Marmotti. Non sgranare gli occhi. Visentini e Caletti sono morti o forse solamente feriti. Adesso tocca a te. Avanti, avanti, che tu sei un ragazzo di giudizio, giusto? Sì, signor. Guarda di non farti beccare anche te, è chiaro, non esporti. Sì, signor, oggi i sassi hanno messo gli occhi da quella parte. Stammi bene attento, che ne va della pelle, ne va. Sì, signor, sì. E portami notizie dei tuoi compagni, che stanotte penseremo a ritirarli, vivi o morti. Sì, signor. Il rumore dei passi di Marmotti svanisce nell'ovatta della neve. Non si sente più nulla. La linea nemica sembra morta. Eccolo! Lo vedo! Sta uscendo Carponi dal camminamento. Ora si è gettato ventre a terra, bravo Marmotti. Sta strisciando lento e guardingo, a capo basso. Bene, bene. Ora si appoggia un po' sui gomiti per fare leva. Ma che fa? Ah, si è fermato un momento per prendere fiato. È dietro ai massi e le gobbe che lo riparano dalla vista del nemico. Avete capito come si fa? Si muove di nuovo. Ha imboccato l'ultimo tratto. Ora si è fermato ancora. Muove appena la testa a destra e a sinistra senza sollevarsela. Ma forse ha perso il senso della direzione. Ecco, guadagna ancora un po' di terreno. Bene ragazzi, qualche metro e Marmotti ce l'ha fatta. Mi sembra che abbia raggiunto i piedi di Caletti. Lo sta chiamando. Caletti non risponde. Lo chiama ancora. Ah, Caletti deve essere morto ragazzi. Adesso sta provando a scavalcare il corpo del colpito. È stato colpito anche lui, maledetto croato. Amici, fratelli, deve esserci un cecchino, uno scarafaggio infilato in qualche buco. Adenè, e so tre, e quattro, e cinque, e sei, e bravo Borga! C'è qualcun altro qui tra di voi, oltre al caporale, che sa così bene l'aritmetica? Sono molto amato, ma anche molto temuto. Quando assumo questo tono, con me non si scherza! Ma non è solo la mia severità che vi zittisce, vero? Un profondo senso di inquietudine si diffonde alla vista dei compagni colpiti, al pensiero che chi deve andare sulla piazzola corre lo stesso pericolo. Anch'io inizio a pensare che non ci sia modo di passare indenni davanti al cecchino. E credete per questo che si possa tralasciare la consegna? Perché i vostri compagni ci sono rimasti? Se bersagliano la vedetta, è segno che non vogliono essere visti, che preparano qualche colpo per piombarci addosso senza mandarcelo a dire e massacrarci tutti quanti. Per questo hanno appostato quel tiratore con un fucile di precisione montato su un cavalletto. Sperano così che noi Non ci manderemo più nessuno per potersi accomodare. Allora, soldati, chi di voi si contenta di lasciarli fare? Lasciarli fare? Ma come, signor tenente? Chi si vuole? Nessuno li vuole lasciare. Siamo pronte, signor tenente, siamo pronti. Ma è che lei che dice de no? State calmi, ci deve andare, come sapete, chi è de turno. Bravo, bella scoperta, caporale Borga. Allora, chi è di turno? Sentiamo. Sor tenente Vomì. Tocca a Lusso, ma Lusso è il gamoi e fioi. E poi, mica fa vede a tu come lei che si scrive balde cecchin. Bravo, Gusmaroli, bravo. Questo è parlare da soldato, no stare a cavare i numeri dell'otto. Vai e bagnagli il naso a quelli che se la fanno nei calzoni. Uè, Lusso, Aleger, che vomì, ma cosa l'è che te che è? Alleghe ragazzi! Ciao caporale! Ah, Lusso, alleghe! Che vomì! Lusso, se resti anche a me, te lasci in testament i scatulet! E manda l'erma a casa della mia mamma, Alleghe ragazzi! Alleghe! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Caro il mio fratello, le da un toc de tempo che tu promesso questa mia lettera e fino a che potevi non scriverti. Mi trovo all'altezza di più di 2000 metri sul livello del mare. Fa freccia e c'è molta neve, più di 3 metri. Caro fratello, ti deghe da considerare quel che mi deste ad Isi, la cosa più preziosa che ti deghe. Riguardo al fatto, ovvero disaster, che le successe alla cassina del cugna Andrea, ovvero della morte delle vacche dell'anno 1902, nel febbraio. Su sta a me, con l'intervento e l'incitamento della mamma e della sorella Maddalena, su sta a me a fare il suddetto delitto, a furia dei preghieri, dei incitamenti della mamma e della sorella Maddalena, la quale la diceva che aveva forti dolori al ventre, specialmente quando le vacche la facevano correre molto, perciò cedetti e gettai il fuoco nella stalla del cugnai, facendo in sì morire tutto il bestiame. Te dici anche che la nostra sorella Maddalena mi invitò di mettermi d'accordo con ti Domenico de massa su Marì, nostro cugna Andrea. Siccome lei lo disse anche a ti, Tito può dire benissimo testare e rompere la testa a qualcun che c'ha pan di mance e proveria di far passarmi come mat. Se mi potria spiegare tu, Domenico, te potria capire ben l'immenso eroismo del mio esser chi. Ma l'è impossibile, la comodità la manca ed anche il tempo manca. Caro frate, mi vorrei sperare che ti te il seno arrabbiasse dal tempo che su sta insieme a titi di mai un'ostia. Era un segreto di cui si mischiava specialmente la mamma e mi era disposto a rispettare fino all'ultima goccia del suo sangue. Ma dopo che ho visto quel che ho visto qui, quanti te me scrivere, mandami almeno un par de calzette vecchi che so che ti teghe sempre. Siccome le calze del governo li que fanno come una pezza di lino alla fiamma, e mi trovi senza calze in questa regione custu frecci ricurusi del cuor caldissimo e furtissimo base dal tuo fratei Pietro. Quando mi scrivere dame notizie de ere se ne se adieu. Yeah. Porta ordini! Devo fare qualcosa, devo fare qualcosa! Porta ordini! Volevo che i nemici si svegliassero, che una qualsiasi azione mi togliesse dalla monotonia dell'attesa, ma non questo stillicidio! Porta ordini! Devo parlare personalmente con il comando, devo fermare questa follia! Porta ordini! Vieni qui! Vai subito al battaglione, che mi mandino uno scudo da parapetto! Aspetta! Questo è il buono di prelevamento, hai capito? Parla con il signor maggiore in persona e portami lo scudo. Se non c'è al battaglione, cercalo al reggimento. Fermo per Dio! Mi raccomando, riferisci che la situazione è precipitata. Con Gusmaroli siamo già a 4. Abbiamo un cecchino che si diverte a fare il tiro a segno. Chiedi nuove disposizioni per la vedetta. Di che non possiamo continuare a perdere uomini così. E adesso non perdere tempo in chiacchiere. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. A chi tocca? Chi è di turno? Chi è di turno? Tocca al lusso. È già in pieno assetto. Si deve essere preparato tacitamente dopo aver visto cadere il compagno. Evidentemente presentiva che la sua volta sarebbe subito venuta. Per questo non si è troppo rallegrato della sostituzione. Lusso. Un anziano del 1884. Sul viso scarno e nelle cave occhiaie i segni delle lunghe fatiche. Sarto e studente. Provvidenza dei compagni tutte le volte che hanno strappi e scucci da farsi rammendare. O lettere da leggere o da scrivere. Pare più piccolo del solito. Con le spalle leggermente aggobbite. E il capo un pochino sotto il peso dell'elmetto acciaccato, calcato molto basso. La paura è nel suo sguardo, nelle sue ginocchia che si piegano, nel suo braccio sembra regalare il fucile. Nella vita normale della trincea nessuno prevede la morte o la crede inevitabile. Essa può arrivare senza farsi annunciare, improvvisa, mite. In trincea la minaccia è imprecisa, nello scoppio di una granata che non si vede arrivare, in una raffica di mitragliatrice o in una scarica di fucileria inaspettata che possono o non possono colpire. E allora il coraggio viene facile. Addirittura nell'assalto la pallottola può passarti accanto. Sei nelle mani di Dio. Ma se la sentenza di morte è acquattata, vigile. Se la morte ti guarda da dietro il mirino di un cecchino, precisa, pronta a balzare e a ghermirti, se bisogna andargli incontro fissandola negli occhi, senza difesa, allora i capelli ti si drizzano, la gola si strozza, gli occhi si velano, le gambe si piegano, le vene si vuotano, tutte le fibre tremano, tutta la vita sfugge. Animo, Lusso, tocca a te. Tu sei un ometto a posto, senza spavalderie che costano caro qui. Non bisogna esporsi, Lusso, va bene? Non bisogna esporsi. Quante volte ve l'ho detto? Non bisogna esporsi. Lo devo porre in musica? Signor tenente, io c'ho moglie e 3 bambini. Casomai, se muoio, il governo ci pensa a lui, alla mia famiglia. Ma sì, sì, il governo ci pensa. Ci penserà. Lo sapete tutti che il governo ci ha pensato, no? Ma stammi allegro, per Dio, vai, Lusso. Tu hai fatto la guerra, tu lo sai che le pallottole sono cieche, che il nostro destino è in mano a Dio. Guardati e vai adesso, vai. Rimane muto. Beve tutta la sua razione di cognac. Un senso di rimorso vince il mio cuore. Mento sapendo di mentire, la pallottola che lo aspetta non è cieca, c'è uno scarafaggio nascosto dentro qualche... Signor tenente, ho la bocca arsa. Prendi, Lusso, dai un sorso di cognac anche dalla mia borraccia. E coraggio, e non esporti. Vai adesso, vai, vai, vai. Rosso in viso, suggella la borraccia alle labbra, la testa rovesciata indietro, sembra fulminato, si direbbe morto in piedi. Solo la gola che trangugia il liquore dà segni di vita, con sussulti che sembrano gemiti. Non devo espormi, devo restare sulla sinistra. Non devo espormi, schiacciato, spiaccicato, fare una cosa sola con il suolo. Alzare la testa impercettibilmente, avanzare impercettibilmente, lavorare di gomiti, non sollevarsi di una linea, insinuarsi tra le pieghe del suolo. Ho la bocca arsa. Amico mio, in questa brutta guerra io mi difendo bevendo, altrimenti sarei già al manicomio. Prima, lo sai, non bevevo. Sinceramente ho la faccia di soldato, io. Lo sai, ho fatto 2 anni di università e lettere, sempre il primo del corso. Quella era la mia carriera. Ma contro le scelleratezze del mondo un uomo onesto si difende bevendo. È da oltre 1 anno che faccio la guerra un po' su tutti i fronti e finora non ho visto in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda tutti i giorni, uccidersi senza conoscersi, senza neppure vedersi. Pogari rari. È per questo che ci ubriachiamo tutti da una parte e dall'altra. L'anno scorso, più a valle, gli austriaci attaccavano in massa, in ordine chiuso, a battaglioni affiancati. Il vento soffiava contro di noi e dalla loro parte ci veniva un odore di cognac carico, condensato, come se si sprigionasse da cantine rimaste chiuse per anni. Durante il canto, il grido dell'urrà, sembrava che le cantine spalancassero le porte e ci inondassero di cognac. Quel cognac mi arrivava nelle narici, mi si infilava nei polmoni con un misto di catrame, benzina, resina e vino marcio. Bevo da allora. Hai mai ucciso nessuno? Amico mio, hai mai ucciso nessuno con le tue mani? Io nessuno. Eh già, non ho visto nessuno, come avrei potuto ucciderlo? Io credo che se tutti di comune accordo lealmente cessassimo di bere, forse la guerra finirebbe. Ma si buffantisantro su buffuburuddeo. La mia esperienza mi dice che non è l'artiglieria a tenerci in piedi a noi di fanteria, anzi, il contrario. La nostra artiglieria ci mette spesso a terra tirandoci addosso. Ma se si abolisse l'artiglieria da ambo le parti, la guerra continuerebbe. Si provi ad abolire il vino e i liquori. Amico mio, totu firmo, totu firmo. L'anima di questa guerra è l'alcol. Il primo motore è l'alcol. E perciò noi soldati, nella nostra infinita sapienza, la chiamiamo benzina. Azibiri, amico mio. Azibiri. Porta ordini, ho il petto oppresso dall'angoscia. Porta portaordini! Il portaordini torna senza scudo e senza nuove disposizioni. Dura la guerra che mi resisti! Dura la guerra che mi resisti! Dura la guerra che mi resisti! Dura la guerra che mi resisti! È la frase ironica e il ritornello con cui i miei soldati esprimono lo sdegno, il crucio contro il comando, contro gli eroi da poltrona, contro gli speculatori che lucrano sulla grande sciagura. Io non so che dire, io li lascio fare, perché la verità è che noi siamo in guerra con dei capi politici e militari impreparati. I nostri generali sembra che ci siano stati mandati dal nemico per distruggerci, e attorno a loro una banda di speculatori protetti da Roma fa i suoi affari sulla nostra vita. Le scarpe distribuite al battaglione, ah, belle scarpe davvero, sulle loro suole a caratteri tricolori c'è scritto viva l'Italia, e dopo un giorno di neve e di fango si scopre che le suole sono di cartone verniciate color cuoio. Ma le scarpe non sono che un'inezia, non so. Il terribile è che hanno verniciato la nostra stessa vita. Vi hanno stampato sopra il nome della patria e ci conducono al massacro come delle pecore. Ora lo faccio anch'io il conto che fanno tutti. 5 colpiti, tra morti e malvivi, senza che si possa pensare a ritirarli, senza che si possa soccorrerli, senza un nuovo ordine. Spero che il comando mi dia la facoltà di rinunciare a questa piazzola mortale. Pronto? Pronto? Sì, posto numero 12. E io con chi parlo? Con l'aiutante maggiore? Ah, con l'ufficiale di servizio. Bene, bene. Allora, preghi il signor colonnello che faccia aprire un fuoco di rappresaglia contro il quadretto 19. 10 e 9, quadretto 19. Chiedo un tiro di rappresaglia perché mi hanno ucciso 5 uomini che mando alla vedetta del canalone. Sì, uccisi, buttati giù, rimasti lì dove non è possibile andare a ritirarli se non viene buio. Il posto è pericoloso, stamane i nemici si sono risvegliati. Sì, abbiamo capito a nostre spese che non sono più boemi ma croati. E per questo lo chiamo. La piazzola è rimasta sguarnita, c'è da temere una sorpresa. Ci mando altri, ma per Dio me ne gettano a terra, quanti ce ne mando? No, no, non si può alzare un riparo per la configurazione del terreno. Adesso, no, no, è impossibile di giorno. Certo, sì, mi arrangio. Torno a pregare il signor colonnello. Allora prego lei che l'artiglieria apra il fuoco, che... Ma se i grossi calibri dipendono dal corpo d'armata, dia l'ordine alla batteria da montagna e telefoni se crede al corpo d'armata. Come? Pronto? Pronto? Va bene? Va bene? Ce ne mandi tanti finché i caduti non formino un parapetto. Questo mi ha detto. Ce ne mandi tanti finché i caduti non formino un parapetto. Il bianco è veramente un segno di lutto. Io non so perché noi occidentali abbiamo scelto il nero. Nel nero io sento il mistero, la paura, l'assoluto, l'infinito Dio. Io sento la vita universale nel nero. Ma è il bianco che mi dà il senso della fine, il ghiaccio, il freddo della morte. Caporale Borga, ascoltami. Neanche dal tiro dei cannoni mi riprometto un granché. La linea nemica è troppo ben incassata e nascosta. L'assassinio dei nostri uomini deve essersi ficcato dentro qualche crepaccio dove il fuoco non lo disturberebbe. Tuttavia, dobbiamo provare con l'artiglieria. Oppure noi dobbiamo aspettare finché i caduti non formino un parapetto. Allora ragazzi, contenti? Sentirete che musica dalle retrovie, dai nostri cannoni, dalla nostra artiglieria. I nostri compagni saranno vendicati. Chi è di turno? Chi è di turno? Chi è di turno? E cos'è il comando? Che cos'è il comando? Comandare significa saper comandare, eh? Cioè evitare un cumulo di errori per cui si sacrificano inutilmente e si demoralizzano i nostri soldati. Questo è il comando. No! Comandare significa il diritto che ha il superiore gerarchico di dare un ordine. Non ci sono ordini buoni o ordini cattivi, ordini giusti o ordini ingiusti. L'ordine è sempre lo stesso, è il diritto assoluto all'altrui ubbidienza. Chi è di turno? Sor tenente, tocca a Riccio. Che devo fare? Vado a chiamare? Vabbè. Riccio! Riccio, te vuol tenente, Riccio, Riccio, Riccio. Il nome è ripetuto lungo la trincea come per una successione di echi senza che il chiamato risponda. E Ricci, un toscano biondo e pallido dagli occhi chiari e lucenti, è nell'ultimo ricovero inginocchiato davanti al tascapane e al sacco a terra dal quale trae fuori la sua roba. Al richiamo scuote semplicemente il capo, poi, davanti al caporale Borga, alza il viso e scuote ancora la testa, negandosi. Riccio, per davvero, te sta a chiamar tenente, dai, Riccio, te sta a chiamar tenente, non è vero nulla. Mi chiama il tenente, mi chiama la morte, ma sangue di Giuda... Ma guardasi la carne battezzata sa da macellà così. Ma porco monno, sangue di Dio. E non bestemmiare, Borga. Ricci, sistema le tue cose, andiamo. Il colletto a maglia ingiallito, il rosso specchietto che deforma le immagini, il fazzoletto con l'orlo tricolore e la carta geografica nel mezzo, il pettine, un pezzetto di sapone. Fa un involto e calca tutto dentro il sacco a terra, legando poi la cima con uno spago. Ha tra le mani ancora un mucchio di lettere e cartolino che mette in tasca nella giubba. Si alza, prende il fagotto, lo appoggia sulla parete dove ha incollata un'immagine sacra. Pochi confidano nelle cannonate. La Madonna, sì, lei può salvarlo. Non ti scantare, Ricci. Cappetta mace d'aiuta. Ricci, non è ancora il momento, eh? Andrai appena comincerà la sinfonia, andrai al sicuro, mentre cacceremo tutto il ferro che abbiamo in bocca a quei briganti. Come la vuole, signor tenente, ma se c'è ancora del tempo, io volevo parlare con cappellano, ma ragazzo mio, ma... Dove vuoi che te lo vada a prendere ora il cappellano? È questione di minuti prima che i nostri inizino a bombardare. Io non posso mandartelo a chiamare, va bene? E poi per farne che? Se aveva del tempo, mi voleva confessare. Che devo rispondere? Cosa devo dire? Anch'io credo in Dio da quando ho la morte davanti. Io ho ascoltato la messa al campo davanti a degli altari improvvisati sotto la maestà del cielo. Io ho visto i miei soldati proni, supplici, oranti, tutti, i più rozzi, i più tristi, i più restii, come piegati, come abbattuti da una mano possente. Li ho sorpresi nell'atto di baciare i rosari donati dalle madri, le figure trovate nelle lettere distribuite dal cappellano. E poi, ma non li ho guidati anche io all'assalto gridando avanti figlioli in nome di Dio? Allora mi assumo tutti gli uffici e mi investo di tutte le podestà, come fa il capo, il compagno, davanti a un uomo che muore. Ricci, Raccogliti in te stesso, va bene? Fai il tuo esame di coscienza, pentiti dei tuoi peccati e prometti che seguirai la retta via, eh? Il tuo tenente, che è qui con te, esposto alla morte come te, ti dice che sei assolto in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fermo, è fermo. Regge il fucile tra le gambe, accostato, cerca nella tasca il pacchetto delle lettere, lo estrae con la mano ossuta e me lo porge, mi prende la mano, la porta alle labbra. Io voglio ritirarla, ma comprendo di non dovere, di non potere impedire la manifestazione dei sentimenti di questo umile cuore. E sì, signor tenente, e queste sono le lettere di casa mia. Quando arriverà la notizia della mia morte, le mandi a mio paese, le mandi per favore a mio paese. Vai, vai, la senti l'artiglieria? Corri che il tiro tirerà pochi minuti. Muoviti. Cara mia più bella del sole, oggi incomincio subito a scriverti in risposta della tua qua presente, sulla quale ti risponderò un po' seriamente. Leggi prima la tua del 28 e poi la tua del gennaio del 1917, troverai l'inconveniente, tu capito male. Riguardo a non fare il matto, tu hai ragione, ma sinora che ho fatto il buono e il valoroso l'ho sempre presa nel culo, e ora così provo un po' a fare il matto per vedere se le cose cambiano. Amore mio, questo te l'ho scritto, ma non lo fa mica, perché mi sono ben informato a mio confessore e mi ha dato per consiglio di portare pazienza e di stare sempre in grazia di Dio, che a fare il matto posso perdere la grazia sua e perdere pure l'anima. E persa una volta l'anima non si acquista più, e per questo consiglio ti prometto che farò sempre buono. Così, se non ci si vede più in questo mondo, almeno ci si vede in paradiso. Ora rispondo sulla tua lettera e il perché l'ho bruciata mezza. Tu hai capito male, ma è così. Io l'ho bruciata mezza perché volevo leggere quello che la censura aveva cancellato, perché tante cancellature che fa la censura bruciando la carta si può leggere sotto al cancellamento. Ora tu sai perché l'ho sbruciacchiata. Stai pure certa che né per rabbia né per nervosismo io brucio i tuoi scritti, anzi li tengo più cari di te, perché so che son parole tue uscite dal tuo cuore e io le ho in mano. Te invece mi sei tanto lontana, lontana. Forse in questo mese verrò a farti visita, procurati di farti trovare sana e robusta. Non te lo volevo dire perché non si sa mai, ma l'amore che ho per te, oh Maria, è tanto grande come quello che porto alla Vergine Maria Santissima, nome anche tuo, ed è il più bel nome che possa esistere in questa terra lacrimante per tutti. Ora ti dirò una cosa un po' seria e importante. Come già saprai, io sono stato a confessarmi, a fare la comunione per Natale, ci sono stato anche primo dell'anno. Ti dico la verità, che io ho fatto questo proponimento tutto il cuore, e sarei contento che anche se tu ne facessi un altro simile. Io promisi di volerti sempre bene, e sarei contento se tu facessi lo stesso. Amore mio, accostati ai santi sacramenti e informati bene di ciò che si tratta e di ciò di cui va incontro. Pensa che in questo mondo ci siamo per soffrire e guadagnare il paradiso solo, e se si guadagnasse tutto l'oro del mondo ma si perdesse l'anima, tutto sarebbe nulla. Pensa che l'anima è una sola, e persa quella non c'è più rimedio, ha detto il cappellano. Pensa bene a ciò che mi rispondi. Addio. tuo marito solo. Fisso la piazzola a pugni stretti. In due anni di guerra, nelle mischie terribili, sotto la grandine delle mitragliatrici, davanti alle schiere di uomini falciati, non ho mai provato il sentimento che provo ora per questa lenta, metodica e inutile strage. No, non ci sono ordini buoni o ordini cattivi, va bene? Ordini giusti o ordini ingiusti. L'ordine è sempre lo stesso: è il diritto assoluto all'altrui ubbidienza. No, bisogna rinunciare alla vedetta, questo bisogna, senza paura. Non devo tenere conto della consegna, delle quotidiane ispezioni del maggiore. Io lo infrango l'ordine, mi assumo la responsabilità delle conseguenze. Il consiglio di guerra, il plotone di esecuzione, sì. No, una pistolettata nella tempia prima. No. Vado io sulla piazzola, sì, mi pianto io al posto dei miei soldati. Mi vado. No, sor tenente, no, che fa? Usac che ci deve andare a chi è de turno. Lei non può andare, signor tenente. Allora, il numero uno da seconda squadra, Morana. L'eroe Morana. Morana. Ah, Morana. Dai, devo al tenente, tocca a te. Namo, devi andare al posto avanzato. Caporale, io non ci vado. A sorte ne. Morana ha detto che non ci va. Cosa ha detto? Cos'è che ha detto? Morana, questa è la volta di far vedere come si compie il proprio dovere, eh? Signor tenente, io non ci vado. Oh, questa è davvero nuova, eh? Avete sentito? Andiamo, Morana, guarda che non è tempo di scherzi, eh? Piglia il tuo fucile e svelto. Signor tenente, io non ci vado. Tu? Ma sei proprio tu che ti neghi? Eh? Un valoroso come te? Allora non sei più il Morana della quarta battaglia dell'Isonzo? Non sei più quello che ha visto in faccia i diavoli della Libia e li ha fatti scappare? Non hai per caso il petto fregiato con la medaglia di bronzo? Alzati, per Dio! Ma cos'è? Hai paura anche tu? Ma tu lo sai che cosa significano le tue parole? Lo sai, vero, che cosa comporta rifiutare un ordine? Io, in nome di Sua Maestà il Re, Comandante Supremo dell'Esercito, io, Tenente Alfani, posso valermi della disposizione eccezionale di Sua Eccellenza il Generale Cadorna, Capo di Stato Maggiore, e posso ordinare la tua fucilazione come colpevole di ammutinamento con le armi di fronte al nemico. E vai, non me lo fare ripetere, vedrai che il cecchino non tirerà. Andiamo, eh? Aspettiamo un poco, va bene? Crederanno che abbiamo rinunziato alla vedetta, eh? Io farò riprendere l'artiglieria finché non lo ridurremo a star zitto, eh? Ma come? Preferisci sei pallottole nella schiena dai carabinieri ad una che può lasciarti vivo? O forse che non siamo tutti qui per dare la nostra pellaccia? Non ci siamo tutti preparati a crepare dal giorno che partimmo? Vuoi proprio mettere alle spalle al muro il tuo tenente? Eh? Che ti vuole bene? Che vi vuole bene a tutti? Che darebbe la sua vita per quella dei suoi ragazzi? Gli ordini li sai, lo sai che devo eseguirli. O vorresti che andasse ancora un altro? Lo sai anche tu che il turno è sacrosanto se non ci sono volontari. Io conosco molti uomini che mi hanno detto sinceramente di essere dei vigliacchi, che soffrono di questa malattia che si chiama paura. Devo pensare che questa è la forma dell'eroismo moderno? Soldati! Qui c'è un vigliacco che vorrebbe saltare il turno. Chi di voi vuole prendere il posto del vigliacco? Chi di voi vuole prendere il posto del vigliacco? Allora, se non vado io... Sì, vado io. Sì, se non vado io non va nessuno. Allora, vado io. Lasciami, per Dio, lasciami andare. E gli danno anche le medaglie. Portano anche i segni del valore. E via questi segni, se li portano i vili. Un silenzio attonito, greve, ovattato. Nessuno si muove. Nessuno sa cosa fare, me compreso. Nel silenzio una voce annuncia l'ispezione del maggiore. Allora afferro le spalle dell'eroe, lo scuoto forte, gli domando che dobbiamo fare. I suoi occhi lampeggiano, si ritrae dalla mia stretta, mi dice: ecco, così facciamo. Corre lungo il fosso fino al cunicolo. Si china, afferra il moschetto, lo punta sotto al mento e spara. Il cervello schizza contro i sacchi del parapetto. Non è vero. Che l'istinto di conservazione sia una legge assoluta della vita. Ci sono dei momenti in cui la vita pesa più dell'attesa della morte. Devo dormire. Devo perdere coscienza di me.